Il Signore qui, che prezioso è, lui promesso ha dove sia due o tre. Il Signore qui, che prezioso è, lui promesso ha dove sia due o tre. Resta qui, Signore, benedici ancora. Resta qui, Signore, dentro d'ogni cuore. Resta qui, Signore, benedici ancora. Resta, resta qui, Signore. Oh Cristo mio, dimmi fai un altare per adorarti con tanto ardor, per bere l'acqua tua della vita. Dacci algo sì, per sempre il mio cuore. Oh Cristo mio, dimmi fai un altare per adorarti con tanto ardor, per bere l'acqua tua della vita. Dacci algo sì, per sempre il mio cuore. Si lo Spirito di Dio si muove, si muove, si muove. Si lo Spirito di Dio si muove dentro, dentro del mio cuore. Caro fratello, lascia che si muova, si muova, si muova. Caro fratello, lascia che si muova dentro, dentro del tuo cuore. Io voglio sentire di Cristo la potenza, io voglio sentire lo Spirito Santo, io voglio sentire che gli angeli del cielo mi aiutano a vincere restando accanto a me. Io voglio sentire di Cristo la potenza, io voglio sentire lo Spirito Santo, io voglio sentire che gli angeli del cielo mi aiutano a vincere restando accanto a me. Sento già di Cristo la potenza, sento già lo Spirito Santo, sento già che gli angeli del cielo mi aiutano a vincere restando accanto a me. Sento già di Cristo la potenza, sento già lo Spirito Santo, sento già che gli angeli del cielo mi aiutano a vincere restando accanto a me. Io voglio sentire di Cristo la potenza, io voglio sentire lo Spirito Santo, io voglio sentire che gli angeli del cielo mi aiutano a vincere restando accanto a me. Mi aiutano a vincere restando accanto a me. Mi aiutano a vincere restando accanto a me.